arriva la notte a Brescia e sui tacchi per la strada rumore, vestiti sottili diventano il corpo un vero piacere. Odore, la immagino persa tra le mie lenzuole, guardare furtivo. Odore, per quelli capelli biondi fatto a impazzire, io voglio dormire con Petru. Io voglio dormire con Petru. Di vetro riflesso d'argento, la sua faccia al vento, tremore chiaro di luna, labbra perfette, lei non è qualcuna. Calore, ossessione pura, nasci nella mente, un vero piacere. Amore, per quelli capelli biondi vado a impazzire, io voglio dormire con Petru. Io voglio dormire con Petru. Io voglio dormire con Petru. Voglio dormire con Petru.